Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nessuno si aspetti la bacchetta magica o si aspetti l'uomo o la donna che all'improvviso risolverà tutto. Se c'è una cosa che questo virus ci ha confermato è che le soluzioni si trovano nei comportamenti responsabili, corretti di ciascuno di noi, di tutte e di tutti. Ognuno dunque faccia al meglio quello che può fare per sé e per gli altri e vedrete ce la faremo. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il segretario del Partito Democratico Zingaretti che oggi ha annunciato di essere guarito. Vi ricordate che insomma un po' di giorni fa aveva detto di essere positivo al coronavirus, per fortuna è guarito, è rimasto in realtà in quarantena a casa, si è praticamente curato a casa e tutto per fortuna, almeno per lui, è finito bene e quindi ha colto l'occasione per ribadire l'appello alla responsabilità generale, allo stare tutti a casa, uscire. Per uscire insieme, uscire quando tutto sarà finito, uscire insieme da questo incubo. Tra l'altro anche oggi, sempre oggi è uscito anche la notizia della guarigione di Chiambretti, lo showman, che però era stato ricoverato all'ospedale di Torino insieme alla mamma, che però non ce l'ha fatta. E poi, fra le altre cose della giornata, moltissime che vi racconterò, il capo della Protezione Civile Borrelli, oggi in conferenza stampa, quando ha come sempre illustrato il bollettino dei numeri in Italia del coronavirus, ha detto che ci sono state ancora tante denunce nel fine settimana, ha detto state a casa perché ci sono state oltre 6.000 denunce fatte ieri dalle forze di polizia agli italiani che hanno violato i divieti, chi si è allontanato da casa senza un valido motivo, chi proprio se n'è andato fuori per il fine settimana e addirittura c'era un'ottantina di persone che dovevano risultare in quarantena, quindi davvero con il rischio di contagiare molte altre persone. Bene, possiamo cominciare la puntata tra pochissimo. Come sempre vi ricordo per voi il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666 per le vostre domande e le vostre riflessioni, 349-238-6666, se no pagina Facebook di Effetto Notte sempre lì per voi comodamente. Parleremo, ci collegheremo con gli Stati Uniti che sono ormai il paese che ha superato la Cina, il primo paese per quanto riguarda i contagi del coronavirus, poi l'Italia e la Spagna, ci collegheremo anche con la Spagna e parleremo fra le altre cose di questo accordo che dovrebbe arrivare, si spera, il commissario all'economia in Europa Gentiloni è ottimista, l'accordo tra i paesi europei di come affrontare con quali strumenti il grandissimo, il pesante impatto economico generato dal coronavirus. Per questo e tutti gli altri argomenti tra poco con gli ospiti, adesso partiamo con la sintesi della giornata. La pandemia di coronavirus, sono 35.000 le vittime del mondo, la maggior parte in Europa. E quanto emerge dai dati dell'agenzia France Press, il totale dei contagi in Europa è di 400.000 casi confermati. Intanto il presidente americano Trump fa marcia indietro e chiude il paese sino al 30 aprile. Il coronavirus in Italia, il nostro paese supera i 100.000 contagiati e mai stato così alto il numero di guariti. Rallenta la diffusione in Lombardia, dimezzati gli interventi di soccorso a Bergamo e Lodi. Le misure restrittive, il ritorno alla normalità sarà graduale, spiega il Consiglio Superiore di Sanità, ancora troppo presto per far uscire i bambini. L'Unione Europea e le misure contro l'impatto economico. Berlino ribadisce, si usi lo strumento del MES, ma il commissario Gentiloni si dice ottimista su un accordo europeo. Ungheria, il Parlamento ungherese affida pieni poteri al Premier Orban. Bruxelles dice valutiamo la legge in base ai criteri di Stato di diritto. Salvini, leader della Lega, applaude alla scelta democratica di Orban e Tajani di Forza Italia dice il Parlamento è sovrano. Vaccini, sono partiti in Italia i test preclinici di 5 vaccini contro il coronavirus. Sono tutti condotti dall'azienda Biotech Takis. I risultati sono attesi a metà maggio. Olimpiadi, ora è ufficiale. I giochi di Tokyo si svolgeranno dal 23 all'8 agosto, dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Valentina Vezzali a Radio 24 dice battuto il virus, sarà la festa della rinascita. Partiamo quindi dalla pandemia di Covid-19. I decessi provocati da coronavirus nel mondo hanno superato quota 34.000 su oltre 723.000 casi. Lo riporta l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University e le persone finora guarite sono 151.991. Secondo i dati dell'agenzia France Press sono 35.000 le vittime del coronavirus nel mondo, la maggior parte in Europa, e sono oltre 400.000 i casi confermati ufficialmente di coronavirus nella sola Europa. Per quanto riguarda la la Spagna ha superato questa mattina la Cina per numero di casi confermati e sale al terzo posto nel mondo dopo Stati Uniti e Italia. Secondo l'ultimo bilancio diffuso dal governo di Madrid, i contagi nel paese sono ora 85.195 e le vittime sono salite a 7.340. È guarito intanto il principe Carlo d'Inghilterra e non è più in isolamento. Nel corso comunque della puntata, vi dicevo, avremo collegamenti con la Spagna e con gli Stati Uniti. In Italia adesso, secondo l'ultimo bilancio della Protezione Civile, i malati di coronavirus sono 75.528, 1.648 più di ieri. L'aumento è quasi però dimezzato rispetto a domenica. In totale, compresi morti e guariti, sono stati superati così i 100.000 contagiati in totale nel nostro paese. Per la prima volta calano i malati in tre regioni, Lombardia, Umbria e Friuli Venezia Giulia. I morti salgono a 11.591, quindi più 812 sul giorno precedente. Le nuove guarigioni sono 1.590, il dato più alto dall'inizio dell'emergenza. Sale ancora il numero delle vittime fra il personale medico, 63 morti e 8.358 contagiati. Il viceministro alla salute Sileri dice che il picco dell'epidemia dovrebbe esserci fra 7 e 10 giorni. Vi ricordate poi venerdì, nell'ultima puntata della settimana di Effetto Notte, avevo sentito, era stata ospite la presidente della Federazione degli infermieri in Italia, c'era un bando della Protezione Civile per cercarne 500, hanno risposto in 8.000. Ecco, questo per dire anche la grandezza di chi fa questo mestiere. Ma a proposito delle misure e dei risultati raggiunti sin qui, sentiamo il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura oggi in conferenza stampa. Scusate, il Consiglio Superiore di Sanità oggi in conferenza stampa, Locatelli. Stiamo vedendo i risultati. Questi risultati non sarebbero stati minimamente ottenuti senza le misure di contenimento. È una ragione per continuare a fare questi sacrifici. Certamente ci sarà un prolungamento, l'intervallo, la finestra temporale ci verrà raccontata esattamente dal decisore politico a cui pertiene questa scelta. Se mi chiede una mia personale opinione, appena dopo Pasqua ne riparliamo. Ecco, questo a proposito ancora di quanto dureranno le misure restrittive. Comunque lo sentivamo dai dati cautamente positivi in Lombardia, in particolare Lodi, Bergamo, le zone più colpite. Il numero di chiamate per il soccorso si è ridotto della metà negli ultimi 15 giorni. Continua a rallentare la crescita dei contagi e dei ricoveri in Lombardia. Il totale dei positivi è di 42.161, più 1.154 casi, a fronte di un aumento che ieri era stato di 1.592. I ricoverati sono 11.815, più 202, erano più 461 ieri. Si conferma in maniera omogenea in quasi tutto il territorio regionale una riduzione significativa nei pronto soccorso, spiega l'assessore al welfare Giulio Gallera, anche perché ci sono 1.082 dimessi ed è un segnale molto bello, ha sottolineato. Il dato dei decessi invece, arrivati a 6.818 con un aumento di 458 in un giorno, continua a crescere in modo ampio e, come avevamo detto, aggiunge Gallera, quello sarà l'ultimo dato a migliorare. L'assessore ha annunciato l'arrivo imminente di mascherine e taglia al traguardo l'ospedale Covid alla Fiera di Milano. Dalla fine settimana, da domenica, lunedì, inizieremo qui a ricoverare delle persone, quindi a offrire, a spostare ancora più in là la linea di difesa di Regione Lombardia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi sentiamo le dichiarazioni dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto: speriamo che l'Italia e la Spagna siano quasi arrivate alla stabilizzazione, ma il virus non se ne andrà da solo e serve uno sforzo ulteriore, ha detto Mike Ryan dell'OMS rispondendo a una domanda sull'epidemia di coronavirus nei due paesi. Tra l'altro, in Italia e in altri paesi europei potrebbero esserci in realtà milioni di contagiati dal coronavirus. A stimarlo, sulla base dell'analisi matematica dei dati da paesi europei, è il Centro per i Modelli delle Malattie Infettive dell'Imperial College di Londra, che collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia potrebbero essere, pensate, 5,9 milioni le persone che finora hanno contratto il virus, in pratica il 9,8% della popolazione, mentre le misure di contenimento del contagio avrebbero salvato, sempre secondo questa ricerca, ricerca circa 38.000 vite. In Italia, come in altri paesi europei, stimiamo, dicono i ricercatori, che le infezioni riconosciute siano di diversi ordini di grandezza, inferiori rispetto a quelli reali, soprattutto per la presenza di soggetti asintomatici o con pochi sintomi, oltre che alla limitata capacità di fare test. Domani, per quanto riguarda l'Italia, alla Camera e al Senato ci saranno bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio. Fra i guariti, vi dicevo, anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, risultato negativo a due tamponi, e il conduttore televisivo Piero Chiambretti. I dati di oggi confermano un aumento, ma non un'esplosione, quindi dei contagi anche nelle regioni del sud, innanzitutto in Campania con 183 nuovi casi, e nel mezzogiorno si fa fronte anche all'emergenza economica. Ridurre il contagio, evitare la degenerazione del disagio, corre lungo due direttrici l'emergenza nel mezzogiorno. In Sicilia l'SOS riguarda i reagenti per i tamponi, da Bari si denuncia l'esaurimento delle mascherine, mentre un po' ovunque si reclamano ventilatori. La Campania, con oltre 1.700 contagiati, resta la regione del sud col quadro più preoccupante, mentre in tutto il mezzogiorno si allunga l'elenco di residenze per anziani divenute focolai. A Troina, nell'Ennese, è stata proclamata la zona rossa dopo la scoperta di 110 casi in una struttura. Al fronte dell'epidemia si aggiunge quello del disagio, che morde soprattutto nelle periferie, dove a saltare è stata quell'economia sommersa che garantiva molti la sussistenza, conferma da Palermo Maurizio Artale del Centro Padre Nostro, un presidio a Brancaccio e allo Zenna. Abbiamo avuto un incremento di 80 famiglie in più che si sono rivolte al centro, facendo dei lavoretti nero, prima riuscivano a sbarcare il lunario. Abbiamo anche assistito a quello scippo della ditta che portava a domicilio il mangiare. Nel napoletano si denuncia un aumento di scippi di sacchetti della spesa, ma molti di più sono gli esempi di solidarietà diffusa. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il problema dei contagi si aggiunge oggi il problema dei collegamenti con le isole. Tirrenia ferma i collegamenti con Sardegna e Sicilia, conti sequestrati e traghetti bloccati alla compagnia. Domani, dicevo, alle 12 bandiera a mezz'asta sulle facciate dei comuni e minuto di silenzio alle camere, comuni che sollecitano maggiori aiuti per le famiglie in difficoltà. Le risorse contro la povertà destinate dal governo ai comuni sono insufficienti, servono più fondi. A dirlo sono molti sindaci. I 400 milioni per i buoni spesa non risolvono i problemi dei comuni, dice Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Comuni Italiani. Sono soldi importanti, puntualizza, ma ci aiuteranno per due o tre settimane. E i 4,3 miliardi anticipati dal Fondo Solidarietà Comunale sono risorse già nostre, distribuite ogni anno a maggio e a settembre. I 400 milioni, spiega De Caro a 24 Mattino, serviranno a continuare il lavoro di sempre. Ci sono alcuni comuni che portano direttamente i pasti a casa, ci sono comuni che portano generi alimentari nelle buste, nei cartoni, comuni che alimentano il banco alimentare, alimentano il terzo settore, la Caritas, comuni che invece danno dei buoni. Con l'emergenza coronavirus la povertà è aumentata, dice il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Qui lo scorso anno la Caritas ha aiutato 15.000 persone, ora la situazione è peggiorata, serve subito un assegno di dignità, anche da 1.000 euro, propone Truzzu, ma a zero burocrazia. I buoni spesa non sono risolutivi, scrivono i sindaci leghisti del Friuli in una lettera spedita al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al presidente dell'ANCI Antonio De Caro. A Cesena intanto il comune ha già caricato il buono spesa sulla tessera sanitaria delle persone in difficoltà. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo a parlare delle conseguenze che le restrizioni, delle misure restrittive generano tra le mura domestiche, possono essere devastanti per le donne maltrattate, ne abbiamo parlato più volte. Grazie alla ministra Bonetti della famiglia e alla ministra dell'interno Lamorgese è possibile scaricare gratuitamente anche sul cellulare l'applicazione 1522. Il 1522 è il numero per tutta la nazione, tutto il territorio nazionale, per chiedere aiuto alle operatrici dei centri antiviolenza da parte delle donne. Questo lo ricorda la senatrice dell'Italia Viva Daniela Sbrollin, dice: con questa applicazione ci si può collegare con le operatrici specializzate per un'immediata richiesta d'aiuto, un servizio in più. Dice che non ci fa dimenticare che bisogna mettere in sicurezza sanitaria anche le operatrici e le donne che vengono ospitate nei centri antiviolenza. Andiamo ai mercati, chiudono positive oggi le borse europee, tranne Madrid, Milano più 0,3%, lo spread tra BTP e Bund tedeschi chiude poco sotto quota 200, si riunirà il 7 aprile l'Eurogruppo per discutere delle proposte per combattere l'impatto economico del coronavirus dal MES ai Corona Bond, e ne parleremo tra poco qui all'inizio con gli ospiti. Mentre l'Europa quindi discute su come intervenire contro la crisi economica da coronavirus, crescono i contagi nel mondo. Lo avete sentito all'inizio di questa sintesi della giornata. Il presidente americano Trump dice: sotto i 100.000 morti negli Stati Uniti avremo fatto un buon lavoro. Ha cambiato idea quindi sul fatto di tenere chiuso il paese. Prima diceva fino a due giorni fa che ad aprile avrebbe aperto tutto, comunque poi ci collegheremo con gli Stati Uniti. Invece un altro stato, quello dell'Ungheria, oggi il Parlamento ungherese ha dato pieni poteri praticamente con il voto al primo ministro Orban. L'opposizione grida il golpe e Orban dice: siete allora per il virus. L'Unione Europea sta valutando la legge ungherese sullo stato d'emergenza in base ai criteri dello stato di diritto. Ci sono state varie reazioni dai politici italiani che poi di cui vi parlerò. Per chiudere, un quadro di Van Gogh, Giardino della Canonica a Nuenen in primavera, è stato rubato dal museo olandese di Singer-Laren nella notte tra domenica e lunedì. Lo ha reso noto il direttore del museo spiegando che una porta vetri dell'edificio chiuso a causa della pandemia Covid-19 è stata sfondata dai ladri. Quindi c'è naturalmente chi approfitta di queste occasioni, per quello che non bisogna abbassare la guardia da nessun punto di vista. E poi invece, per quanto riguarda le Olimpiadi, lo sport, è arrivata la data ufficiale, si terranno sempre a Tokyo naturalmente, l'anno prossimo, lo sapete, nel 2021, dal 23 luglio sino all'8 agosto. Poi parleremo anche di questo e poi ci saranno le Paralimpiadi dal 24 agosto al 5 settembre. Direi che si chiude qui la sintesi della giornata, in modo che dopo la prossima pausa possiamo cominciare ad affrontare nel pieno gli argomenti con gli ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Subito insieme, naturalmente, sempre Roberta Giordano con voi. Cominciamo allora ad affrontare con gli ospiti alcuni argomenti in particolare. Per esempio, iniziamo, intanto vi ricordo sempre pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Walter dice: ma chi ha stabilito il picco? In base a cosa? È una cosa che continuiamo a domandarci tutti quanti. Oggi il vice ministro della Salute Sileri ha detto che ci sarà probabilmente verso metà aprile, però nessuno al momento lo sa con certezza. È una cosa che aspettano tutti in Italia, negli altri paesi. È il momento in cui appunto i contagi e probabilmente anche le morti raggiungono proprio il picco, il punto più alto, per poi, questa è la speranza, cominciare la discesa. Per il momento però non c'è nessuna data precisa ed è impossibile anche darla, gli stessi scienziati e ricercatori lo confermano. Quindi per il momento invece soffermiamoci sulle misure che l'Unione Europea dovrebbe prendere, i vari stati, l'Unione Europea nel suo complesso, per affrontare il fortissimo impatto economico che il coronavirus sta generando in tutto il mondo, in Italia molto e naturalmente in Europa. C'è stato, vi ricordate, nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato con Effetto Notte, un importante vertice europeo con i capi di Stato e di Governo dei 27 paesi per decidere quali strumenti comuni appunto mettere in atto per affrontare questo pesante impatto economico. In primis Italia, Spagna e Francia hanno chiesto di utilizzare lo strumento dei cosiddetti Corona Bond, ma gli stati rigoristi, in testa naturalmente la Germania e l'Olanda, hanno subito detto di no. Lo hanno ribadito oggi, in particolare la Germania. Berlino ha detto: ora la questione è come sostenere il credito e per questo c'è il MES. Vi ricordate il famoso fondo salva stati che tante polemiche aveva creato in Italia tra maggioranza e opposizione? Comunque il commissario all'economia Gentiloni oggi si è detto ottimista sulla possibile intesa su questi Corona Bond. Allora chiamo subito in causa Moria Longo, che è giornalista del Sole 24 Ore, ma direi guru della divulgazione economico-finanziaria, vero Moria? Non esageriamo. No, non essere modesto. Quindi, prima di tutto, ci spieghi che cosa sono i Corona Bond? Allora, i Corona Bond ancora non sono, per cui cosa possiamo sarebbe? Solo certo. Supporre, sono ovviamente delle richieste. L'idea del Corona Bond è sostanzialmente dei titoli di debito emessi congiuntamente dai paesi dell'Unione Europea, quindi non sarebbe l'Italia emette i suoi titoli di Stato, la Germania i suoi, la Francia i suoi, ma ne mettiamo uno tutti insieme, garantito da tutti gli Stati, poi bisogna vedere in che modo, in modo che i proventi di questa raccolta di fondi sul mercato possano andare in tutti i paesi europei per l'emergenza del coronavirus. Moria, una cosa, chi comprerebbe questi titoli di Stato? Chi ci presterebbe, cioè, il denaro? Investitori, come gli stessi investitori che oggi comprano il Bund tedesco e i BTP italiani, comprerebbero anche questi titoli, che ovviamente avrebbero un rendimento molto più basso dei titoli di Stato italiani, perché sarebbero garantiti un po' da tutti i paesi europei. Bisogna capire come farli. Possono essere messi da un veicolo nuovo creato dall'Unione Europea, magari a sua volta garantito dal MES, dallo stesso Fondo Salva Stati. Questo veicolo potrebbe emettere obbligazioni, titoli che potrebbero essere comprati dal mercato oppure anche dalla stessa Banca Centrale Europea o da entrambi. Quindi ci sono molte varianti. Di fatto però l'idea, diciamo, per essere molto concisi, è di creare un meccanismo per raccogliere soldi tutti insieme per fronteggiare un'emergenza del coronavirus che non è un'emergenza italiana, non è un'emergenza francese, certo, tedesca o spagnola, ma è un'emergenza europea e purtroppo anzi in realtà mondiale. Quindi l'idea è, siccome il problema è di tutti, risolviamolo tutti insieme con la potenza di fuoco che soltanto l'Unione Europea può avere. Perfetto, però perché gli stati rigoristi, quindi dicevo in testa la Germania ma anche l'Olanda, l'Austria, non vogliono mettere in campo questo strumento comune di raccolta di fondi? La motivazione molto banale è che loro non ne hanno bisogno. La Germania ha un rapporto tra debito pubblico e PIL del 58%, l'Olanda del 49%, l'Italia supera abbondantemente il 130%. Quindi la Germania può benissimo emettere titoli di Stato propri, i Bund, i titoli tedeschi, lo stesso può fare l'Olanda, per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Germania. Per loro c'è un problema, quindi primo non ne hanno bisogno. Secondo problema, e questo può essere anche comprensibile, siccome l'emergenza coronavirus è un'emergenza di tutti, e siccome è una cosa che sta avendo un'escalation incredibile, nessuno sa, parlavi prima del picco, nessuno sa quando sarà il picco, gli stati, diciamo, più rigoristi vogliono evitare di usare i propri soldi per aiutare altri stati quando un giorno magari potrebbero averne bisogno maggiormente loro. Cioè non vogliono andare dai propri cittadini, dai propri elettori, i governi, a dire guardate, abbiamo messo i soldi, abbiamo garantito obbligazioni europee che aiutano, che ne so, l'Italia, la Spagna, la Francia, e ora ne abbiamo un po' meno per noi. Ecco, io credo che la preoccupazione in questo momento sia anche questa, cioè ognuno sta cercando di tenere il proprio fieno nella propria cascina per evitare di disperderlo in un'emergenza che oggettivamente non si sa quando possa finire. Quindi purtroppo in qualche modo Moria si vuol dire che è comprensibile che abbiano questo atteggiamento questi stati? Io stavo cercando solo di descrivere, non li sto giustificando. Quali sono le loro motivazioni? Stavo cercando di spiegare, di capire questo, e poi stiamo tutti cercando di capire perché. Io credo che sia una visione totalmente miope, per tanti motivi. Primo perché, come giustamente ha detto anche il Premier Conte, questa non è un'emergenza in Italia, questa non è colpa dell'Italia, colpa della Spagna, colpa dei paesi del sud, questa è un'emergenza sanitaria che ha avuto un impatto economico fortissimo e quindi va fronteggiata da tutti, dall'Unione Europea. E poi c'è un secondo problema: la Germania può essere anche più forte dal punto di vista del bilancio pubblico dell'Italia o della Spagna, benissimo. Il problema è che la Germania può far fronte alla propria emergenza con una potenza di fuoco enorme, l'Italia molto meno, la Spagna molto meno. Io non credo che sia interesse dei tedeschi, né interesse loro, neanche un interesse europeo, arrivare alla fine di questa emergenza economica e sanitaria con paesi del sud completamente rasi al suolo da un'emergenza economica. Allora io credo che un politico lungimirante debba non soltanto guardare i propri elettori, in questo caso tedeschi, ma guardare l'interesse collettivo di un continente che ha bisogno di superare questa emergenza gigantesca che, ripeto, non è colpa di nessuno e sta arrivando in tutti i paesi. Altrimenti perde la sua ragione d'essere, tra l'altro. Perde la sua ragione d'essere l'Unione Europea, ma io non credo che sia neanche nell'interesse dei tedeschi sopravvivere economicamente a questa emergenza trovando i paesi vicini, come per esempio l'Italia, che ha tante imprese che forniscono un sacco di componenti alle industrie tedesche. Trovare un paese che ha le fabbriche chiuse è un paese in crisi totale. Quindi l'Unione Europea deve assolutamente tirar fuori le unghie su questa cosa e far passare un principio, appunto, di mutualistico, proprio perché l'emergenza è di tutti. E una via d'uscita ci sarebbe, l'ha suggerita anche Gentiloni. Gentiloni si è detto ottimista, no? Sì, oggi, dicendo parte, che un accordo si dovrebbe trovare, allora, su cosa? Diciamo che un'emissione di debito a gratis, diciamola così, per tutti è difficile da trovare. Ovviamente i paesi nordici chiedono che chi beneficia di questa emissione comune sottoscriva un patto e lo faccia a determinate condizioni. La via d'uscita potrebbe essere proprio nelle condizioni, cioè far sì che le condizioni non siano che poi l'Italia deve ridurre il debito come decidono loro, eccetera, eccetera, deve arrivare alla cosiddetta troica. Le condizioni possono essere ben più blande, per esempio semplicemente un vincolo nell'utilizzo di questi soldi. Facciamo un'emissione comune europea e questi soldi devono andare solo ed esclusivamente agli ospedali o comunque a tutte alle piccole imprese chiuse per il coronavirus, quindi a fronteggiare solo l'emergenza coronavirus e non per esempio a ricostruire ponti o a fare gallerie. Questa potrebbe essere una via d'uscita, una condizionalità quindi diciamo blanda che vincoli soltanto l'utilizzo dei fondi e non i bilanci degli stati. Il problema qual è, ed è il timore di tanti, soprattutto nel mondo diciamo dei sovranisti, ma è un timore comunque anche legittimo, che questa condizionalità blanda possa un giorno diventare un po' maggiore qualora, quando passerà l'emergenza coronavirus e si tireranno poi le somme dei conti. Questo è un po' il problema. Io credo che alla cioè fine che cosa potrebbe verificarsi una volta passata l'emergenza? Cioè questo è un timore, non è una certezza, che le condizioni poi possano diventare più restrittive, cioè che a quel punto ci possano appunto chiedere di più. Quindi bisogna assolutamente creare una cornice certa che vada bene a tutti. L'Unione Europea è un condominio, non è una cosa dove comandano i tedeschi o dove non dovrebbero comandare i tedeschi o gli italiani e i francesi, è un condominio comune, bisogna trovare delle regole condivise. Certo è che questa è un'emergenza sanitaria gigantesca, senza precedenti, sanitaria e purtroppo anche economica, gigantesca, senza precedenti, o si prendono misure veramente forti tutti insieme, oppure se ognuno va per i fatti suoi, sinceramente non vedo più quale possa essere lo scopo dell'esistenza dell'Unione Europea. Ecco, l'Unione Europea, per esempio, vedevo anche solo che solo per quanto riguarda gli Stati Uniti potrebbe esserci una perdita di 47 milioni di posti di lavoro, quindi possiamo immaginarci cosa potrebbe succedere da noi. Dice questo ascoltatore, e allora, qualora Germania e Olanda dovessero avere bisogno del nostro aiuto in futuro, perché nella vita non si può mai sapere, ci ricorderemo del trattamento ricevuto e ci comporteremo di conseguenza, dice che senso ha questa Unione Europea. Però, Moria, mi sembra che il prossimo appuntamento sia il 7 aprile, quando dovrebbe riunirsi l'Eurogruppo per discutere appunto queste proposte per fronteggiare l'impatto economico, no? Sì, ci sono tanti appuntamenti. Perdonami, sì, che ci siano tutte le opzioni in discussione sul tavolo. Sì, le opzioni sono questa del Corona Bond, oppure l'utilizzo anche del MES, il Fondo Salva Stati, tanto criticato da molte persone, con anche qui condizionalità blande, ridotte, questa sarebbe la possibilità. Il MES di buono ha che ha già un capitale sottoscritto, gli Stati europei hanno sottoscritto capitale già fatto, quindi non devono fare di più, per 700 miliardi, di cui 80 miliardi già versati, quindi questo è un fondo che ha una sua forza finanziaria, di questi 80 miliardi 14 sono italiani, già versati, quindi non è che sono cose che ci chiedono in più, sono già messe lì da tempo. Quindi ha una potenza di fuoco potenziale di 410 miliardi, quindi anche il MES andrebbe sul mercato a chiedere i soldi, a finanziarsi, ma ha un capitale sottoscritto dagli stati molto forte. Quindi il MES potrebbe essere un veicolo, perché ha già una sua capacità. Creare un altro veicolo per i Corona Bond potrebbe essere lungo, macchinoso, farraginoso, eccetera, eccetera. Il problema del MES è che attualmente per accedere ai finanziamenti al MES si chiedono di sottoscrivere delle condizioni molto dure. Ecco, se si riesce a trovare un modo per non sottoscrivere queste condizioni o semplicemente condizionare l'utilizzo dei soldi e non il bilancio degli stati, potrebbe essere la soluzione. Oppure si potrebbe usare anche la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che è un altro veicolo europeo che può emettere titoli per tutti. Quindi gli strumenti sono tanti, bisogna solo soppesare bene i pro e i contro. Io mi auguro che l'Unione Europea dia la prova di essere un'unione e non un insieme di stati che tra di loro una cozzaglia. Moria, giusto questo dei tanti messaggi, ti leggo anche questo di Ettore da Torino, che dice: mi permetto di dissentire dall'esperto, che saresti tu. La Germania e gli altri stati del nord Europa hanno grande interesse a trovarci deboli alla fine della crisi sanitaria, così potranno comprare le nostre aziende per un boccone di pane. Vuoi rispondere? È possibile, io la penso da maniera diversa. Io credo che non sia questa una politica lungimirante neanche da parte loro, perché essere più forti in mezzo alle macerie non mi sembra sia una cosa così molto vantaggiosa, dici. Molto vantaggiosa, però è vero, uno dei pericoli è proprio questo, che tanto è vero che il governo sta cercando di fare una golden power, un, poteri rafforzati per evitare che le nostre aziende vengano rubate a prezzi di saldo, anche aziende buone. Però che sia questo l'interesse della Germania è possibile, io non contesto questa osservazione perché ovviamente ognuno lo può pensare come vuole, ma se fosse questa la loro intenzione, non mi sembra un'intenzione da parte loro lungimirante o quantomeno equilibrata. Grazie caro Moria Longo. Grazie al 24 ore, buon lavoro, buona serata. Ciao Moria, e per quanto riguarda invece vedo adesso che il ministro della Salute Speranza ha fatto una dichiarazione in realtà poco fa e ha detto le misure di contenimento saranno estese fino a Pasqua. Pasqua sapete che è il 12 aprile, in realtà già il Presidente del Consiglio e anche il Comitato Tecnico Scientifico, insomma le dichiarazioni di questi giorni avevano già fatto comprendere che si andrà avanti almeno ancora 15 giorni. La scadenza dello stato d'emergenza, quello più prossimo doveva essere il 3 aprile, ma già si è detto insomma che proseguiranno queste misure e che poi in base alle valutazioni del Comitato Scientifico, che è il consulente tecnico scientifico, il consulente del governo, si capirà fino a quando andare avanti. Naturalmente l'avete capito che si naviga a vista inevitabilmente. 349-238-6666 il numero per vostri sms e whatsapp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano, soprattutto, anzi, se siete a casa, siete sicuramente a casa ad ascoltare Effetto Notte, a meno che non abbiate degli orari particolari, dei turni di lavoro, altrimenti è lì il posto giusto, il momento giusto, ascoltando Effetto Notte, in modo da avere, come sempre, a fine giornata un quadro, il più possibile esauriente, chiaro, delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, che purtroppo da più di un mese sono quasi tutte legate alla pandemia di coronavirus. Intanto vedo, a proposito parlavamo del fondo che l'Unione Europea dovrebbe creare, o il Corona Bond, oppure trarre finanziamenti dal MES, insomma per raccogliere i soldi per riuscire a fronteggiare tutti insieme come continente l'impatto, il forte impatto economico determinato dal coronavirus. La senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi propone, dice, dimezziamo lo stipendio di tutti i parlamentari sul modello di quanto facciamo già noi del Movimento 5 Stelle dal 2013. Dice, ecco la nostra proposta per un segnale forte e chiaro da parte dei deputati e dei senatori, un contributo di 60 milioni l'anno da destinare alle esigenze dei cittadini di chi più di altri si trova in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Poco fa la presidente di Fratelli d'Italia Meloni ha detto i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia hanno devoluto le loro intere indennità, abbiamo raccolto 500.000 euro devoluti all'ospedale di Bergamo, anche noi dobbiamo fare la nostra parte. E poi c'era anche l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Manley, che ha dichiarato proteggere la salute finanziaria dell'azienda di Fiat Chrysler è responsabilità di tutti, a partire naturalmente da me e dal team di leadership, al fine di raggiungere questo obiettivo, ha detto Manley, per evitare una riduzione del personale nel secondo trimestre, nel mese di aprile per i prossimi 3 mesi ridurrò il mio stipendio del 50% e i membri del Group Executive Council ridurranno il loro del 30%, quindi ognuno così a livello personale o di gruppo o di partito o di azienda si cominciano a capire che bisogna un po' rinunciare a parte dello stipendio, soprattutto perché ha dei stipendi consistenti. Poi parleremo anche di quelli dei calciatori, dovrebbe essere slittata però in realtà la riunione che doveva esserci questa sera per decidere un taglio allo stipendio dei calciatori. Adesso però c'è una notizia che viene dall'estero che non riguarda, almeno non in modo così estremamente diretto, i temi legati al numero dei contagi, di vittime, alla situazione degli ospedali. Ecco, non riguarda in modo estremamente diretto questi numeri, questi argomenti, però diciamo che trae occasione, che coglie il pretesto, non so come lo vogliamo dire, dall'emergenza coronavirus, perché sto parlando di quello che è successo oggi in Ungheria. Il Parlamento ungherese ha votato i pieni poteri per il primo ministro Viktor Orban per combattere il coronavirus. Con questo voto del Parlamento ungherese, Orban, senza limitazione di tempo, può governare sulla base dell'emissione di semplici decreti, può chiudere il Parlamento quando vuole, può cambiare o sospendere le leggi esistenti, ha la facoltà di bloccare le elezioni, spetta inoltre a lui determinare quando finirà lo stato di emergenza. a favore hanno votato i deputati di Fidesz, del suo partito, e alcuni dell'estrema destra. L'opposizione però in Ungheria ha gridato al golpe, al colpo di Stato, ha detto inizia la dittatura senza maschera di Orban, e lui ribatte: Orban, state allora dalla parte del virus. Le prime reazioni in Italia quali sono state? Il presidente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea della Camera, Battelli, del Movimento 5 Stelle, ha detto l'Ungheria viaggia verso la dittatura. Il leader di Italia Viva, Renzi, oggi ha dichiarato Orban cambi idea o l'Ungheria sia fuori dall'Unione Europea. Orlando, vice segretario del Partito Democratico, ha affermato l'Unione Europea fermi Orban, è un regime autoritario, non può far parte dell'Unione. Fico, presidente della Camera, ha detto quello di Orban e del Parlamento ungherese è un comportamento non consono con le democrazie europee. Il leader della Lega Salvini ha detto saluto con rispetto la libera scelta del Parlamento ungherese eletto democraticamente dai cittadini, buon lavoro al mio amico Viktor Orban. E la presidente di Fratelli d'Italia poco fa, Meloni, ha detto non vedo nessun rischio di dittatura in Ungheria, ha detto a Stasera Italia su Rete 4, e anche Tajani di Forza Italia ha detto il Parlamento è sovrano, quindi se lì hanno deciso così. Renzi però poi ha replicato Salvini che oggi giustifica la scelta di Orban, mi fa passare d'incanto, ha scritto tutti i dubbi che ogni tanto mi vengono sulla nostra scelta dell'agosto 2019. Allora coinvolgo subito Matteo Villa, analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Villa. Buonasera a voi. E grazie di essere tornato qui a Effetto Notte. Allora, non essendo in tempo di guerra, questa è una guerra che combattiamo tutti a livello mondiale contro questo maledetto virus, in paesi caratterizzati da istituzioni democratiche, è successo spesso una cosa di questo tipo, che un Parlamento votasse per dare i pieni poteri a un primo ministro? È una situazione un po' particolare, anomala, Villa? No, non è mai successo e credo non succederà altrove, nel senso che nel resto d'Europa non si è parlato neanche in quei paesi che come l'Ungheria sono stati a rischio, insomma, accusati di infrangere alcune regole dello Stato di diritto, limitare la libertà della magistratura, in parte la libertà d'espressione dei media, neanche quindi in Polonia per esempio si è mai parlato di sospendere il Parlamento, perché anche se si autosospende un Parlamento, una governo, diciamo un paese senza Parlamento, di fatto non è più democratico, non ha più il controllo di uno dei tre organi, di uno dei tre mani, diciamo, cioè rimane soltanto la magistratura, che è abbastanza limitata in Ungheria, e quindi resta l'esecutivo che può governare per decreto. E seconda cosa, ricordiamocelo, non si tratta di una sospensione provvisoria, si tratta di una sospensione illimitata finché il governo non lo decide, cioè il Parlamento si è autosospeso illimitatamente. Vedo che 9 organizzazioni per la difesa della libertà di stampa e informazione hanno lanciato un appello all'Unione Europea chiedendole di opporsi ai poteri assoluti a Orban, e ha risposto il commissario europeo per la giustizia e lo Stato di diritto, Didier Reynders, che dice la Commissione Europea sta valutando le misure di emergenza adottate dagli Stati membri in relazione ai diritti fondamentali, in particolare per il caso della legge votata oggi in Ungheria sullo stato d'emergenza e le nuove sanzioni penali per la diffusione di informazioni false, perché si parla anche di sanzioni penali, cioè di carcere per chi dovesse diffondere informazioni false, però in questo potrebbe essere anche incluso, non so, una critica alle direttive del primo ministro in campo sanitario, economico. Villa, esatto, sì, si suppone che Reynders purtroppo ha le mani legate, ma questo ce lo ricorderemo per sempre, credo. L'Unione Europea del 2004, che ha ammesso anche l'Ungheria quando ha fatto l'ultimo allargamento con 10 paesi che entravano, era un'Unione Europea diversa in cui si pensava che non si potesse uscire dalla democrazia, non si potesse abolire il Parlamento, sospenderlo almeno, però illimitatamente per decreto, per legge certo, autosospendersi, ma non si pensava, e quindi non è mai stato previsto nei trattati un modo di sanzionare un paese membro che non sia al massimo la sua sospensione del diritto di voto. Quindi potete immaginare quelli che oggi dicono spelliamo l'Ungheria dall'Unione Europea perché è diventata una dittatura, sappiate che non esiste un meccanismo, non esiste alcun meccanismo se non la sospensione del diritto di voto. Quindi l'Ungheria, finché non chiede di uscire dall'Unione Europea, non potrà mai essere in qualche modo messa all'angolo, se non al massimo appunto sospendendo il diritto di voto, che è comunque una procedura forte, non ancora attivata mai per l'Ungheria, ma è qualcosa di chiaramente debole rispetto comunque all'infrazione a mio parere è molto grave. Meloni ha dichiarato su Rete 4: non c'è rischio di dittatura in Ungheria. Molto spesso Orban è stato raccontato come un pericoloso dittatore, ma segnalo che sta nel Partito Popolare Europeo che in Europa governa. In realtà mi sembra che sia stato sospeso dal Partito Popolare Europeo, non escluso ma sospeso, ha detto Giorgia Meloni. L'emergenza comporta delle scelte necessarie, ha aggiunto Meloni, che stanno facendo in tutta Europa tutti i governi, compreso il nostro. Mi pare che anche qua in Italia ci siano decisioni gravose e dolorose nella maggioranza dei casi prese con decreto del Presidente del Consiglio. Sì, assolutamente, si prendono decisioni per decreto, l'Italia è famosa in questo, è famosa in tempi, diciamo, non di emergenza e non diciamo di guerra contro il virus, e ovviamente sta continuando a procedere per decreto, addirittura con tanti decreti uno dietro l'altro. Questo non significa che ciascun decreto non venga poi sottoposto alla conversione in Parlamento e poi al controllo democratico dell'altro, appunto, dell'organo che controlla ciò che fa il governo. Al momento in Ungheria non si può votare, quindi non c'è una maggioranza, c'è soltanto un governo che non ha bisogno di maggioranza per governare illimitatamente. Questo è chiaramente una cosa totalmente diversa rispetto a fare governi all'interno dell'alveo democratico e attendere che poi la maggioranza in Parlamento li converta in legge. Quindi, per concludere, Matteo Villa, nel cuore dell'Europa, prendendo evidentemente, usiamo questo termine come pretesto, il coronavirus, c'è il rischio che per il momento l'Ungheria, però diceva che pare quasi impossibile che qualche altro Stato possa prendere queste iniziative, possa percorrere una deriva autoritaria? Ma io non me l'aspettavo neanche dall'Ungheria, sono giorni in effetti che è in discussione questa legge, però le opposizioni in Ungheria dicevano: beh, almeno mettiamo un limite di tempo, dicevano 90 giorni, sospendiamo il Parlamento se proprio Orban lo chiede, ma chiediamo almeno un limite di tempo. Questo avrebbe consentito di dire, diciamo uno stato d'emergenza, quello che può succedere durante appunto una guerra, una sommossa, un conflitto civile, ma poi si ritornerà alla normalità democratica. Se anche Orban lo facesse, lo farà soltanto perché lui decide tra 90 giorni, e quindi, o tra 180, ora non sappiamo. Quindi più che, diciamo, contagio, è una questione solo ungherese, una questione a mio parere altamente preoccupante. Sulla quale, insomma, vedremo nei prossimi giorni che valutazioni, con quali esiti farà l'Unione Europea. Grazie Matteo Villa dell'ISPI. Grazie. Grazie a voi. E buon lavoro e buona serata. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Proseguiamo lungo il percorso di Effetto Notte, sempre Roberta Giordano con voi a raccontarvi quello che succede insieme agli ospiti. Adesso ci colleghiamo con la Spagna, parlavamo di Europa, ne parliamo da un altro punto di vista, cioè con purtroppo i record di contagi e anche di vittime. La Spagna ha superato la Cina per numero di contagi ed è stremata dal dilagare del coronavirus, conta 812 decessi in un giorno, quindi un totale finora di oltre 7.300 vittime, e con più di 85.000 casi, appunto, dicevo, supera la Cina. Ci ricolleghiamo, come anche nei giorni scorsi, con l'editorialista del quotidiano Il País, Jorge Mari Rodriga. Bentornato, Jorge. Buonasera, Roberta. Allora, io ho sintetizzato un po' i numeri, no, Jorge? Naturalmente si tratta sempre, lo diciamo, di persone, soprattutto per quanto riguarda le vittime, quindi fa quasi così un po' senso a un certo punto dover snocciolare tutti questi numeri, però danno anche la misura della drammaticità della situazione anche da voi in Spagna, no, Jorge? Sì, certamente il numero dei morti è ancora sconvolgente, tutti cercano, diciamo, la luce o qualcosa di positivo, e l'unica cosa che possiamo trovare oggi è che i morti di oggi sono meno dei morti di ieri. Questo dà un po' di speranza che forse si sta arrivando al livello più alto. Il famoso picco. Sì, certo. Oggi è il primo giorno nel quale il governo spagnolo ha decretato loro lo chiamano l'ibernazione dell'economia, cioè tutte le attività non essenziali sono vietate. È una vacanza di Pasqua adelantata. Quello a cui noi in realtà siamo arrivati già da un po' di giorni, Jorge. Senti, però vedevo che quel gigantesco ospedale da campo montato a tempo di record nell'area della Fiera di Madrid non funziona come si sperava? Certamente. Le prime notizie, quando questo ospedale si è costruito così veloce, tutto era ottimismo, ma una volta che i malati sono iniziati ad arrivare là, si è visto che ci sono tantissimi problemi che non sono differenti dai problemi nelle ospedali diciamo normali. C'è mancanza di materiale, ci sono anche dei problemi di sicurezza, scusami, quindi non funziona come dovrebbe. È molto difficile in una situazione di queste fare tutto bene dall'inizio. Poco tempo, certo. Poi vedo che per evitare il collasso il Ministero della Salute sta studiando la possibilità, leggevo, di trasferire pazienti dalle regioni con la maggiore pressione sulle rianimazioni, che sono appunto la città di Madrid e la Catalogna, verso aree dove le strutture sanitarie sono meno aggravate, come un po' anche avvenuto in Italia, no Jorge? Certo, questo diciamo è il piano B. Per evitare il collasso totale degli ospedali di Madrid e di Catalogna. E questo funzionerà solo se nelle regioni nei quali i malati sono stati trasferiti non arrivano a una situazione come quella di Madrid. In questo momento sembra di no, ma come vediamo l'evoluzione della malattia è molto veloce e c'è una grande incertezza sull'effettività di questa misura. Ma insomma, speriamo il meglio e speriamo che anche la Spagna, come diceva l'OMS, si stia stabilizzando, come speriamo anche nel nostro paese l'Italia. Un abbraccio a te, Jorge, e alla Spagna. Ciao e buon lavoro. Ciao a loro, grazie. Grazie. Ciao Jorge Maria Rodriguez. E dalla Spagna agli Stati Uniti, esattamente a New York, dove c'è il nostro Riccardo Barla. Ma ciao Riccardo. Ciao Roberta. Allora Riccardo, altro che sorpresa di Pasqua che Trump continuava a dire in questi giorni, a Pasqua apriremo tutto, riprenderà tutto, questo è un paese che non può chiudere, oggi mi sembra che abbia fatto marcia indietro e abbia parlato di un mese intero di aprile di chiusura. Sì, è così, fino al 30 aprile tutti a casa, tutti gli Stati Uniti, non solo New York che è il centro della pandemia, devo dire è cambiato anche il linguaggio di Trump e anche il comportamento, lui ascolta per fortuna ora più prudentemente i suoi consiglieri scienziati, questo dottor Tony Fauci che è il capo direttore dell'Agenzia Nazionale contro le malattie infettive dal 1984, un uomo rispettato da tutti e due i partiti e questo ha detto che i morti negli Stati Uniti potrebbero essere dai 100.000 alle 200.000 persone nel caso peggiore e ha detto anche che se dovesse riuscire il paese con queste misure di contenimento a restare sotto le 100.000 vittime, che è un numero enorme, sarebbe un successo. E oggi Cuomo, che è diventato un po' il leader nazionale, suo malgrado. Cioè il governatore dello Stato di New York. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ogni giorno fa da un paio di settimane il briefing quotidiano sulla situazione nel centro della pandemia ed è molto ascoltato. I sondaggi dicono che l'87% degli abitanti di New York credono in lui, il 73% credono in Fauci, il 60% al sindaco De Blasio e solo il 41% crede nelle parole del presidente di come si è comportato in questi settimane. Ebbene, Cuomo ha detto è il momento dell'unità, non è il momento di litigare sulla politica, è il momento che dobbiamo cooperare tutti insieme per vincere questa guerra e sono parole molto, molto sagge che non si può non condividere. Lo stesso Trump ha detto delle parole, ha visto le immagini di questo ospedale al Queens dove l'Elmhurst Hospital, oggi ho parlato con un mio amico anestesista che venerdì andrà lì a dare una mano a questo ospedale che è un po' il simbolo della tragedia in corso a New York dove ci sono lunghe code di persone con la mascherina sui marciapiedi che attendono di fare il test, i morti come purtroppo abbiamo visto già a Bergamo vengono portati via con i camion frigo, neanche nelle bare, nelle sacche perché non ci sono le bare, non c'è più posto. E Trump ha detto non ho mai visto una cosa del genere, accade nel mio quartiere dove sono cresciuto, nel Queens, no? E quindi lo stesso Trump ha cambiato diciamo molto atteggiamento. Un po' tardi insomma per essere il presidente del principale stato del mondo, meglio tardi che mai bisogna dire a questo punto, Riccardo. Ecco, non lasciate a me i commenti, lasciate alla vostra immaginazione, vi dico che in questo momento mi sembra che nel paese, anche a New York, è cominciata una cooperazione vera, i tre stati attorno a New York da oggi accolgono gli ospedali di Connecticut, New York State, New Jersey, accolgono i malati che non hanno più i posti letto a New York, è arrivata questa nave della Marina che ha 1.000 posti letto per tutti. Arrivata a New York, la nave ospedale per tutti i malati che non hanno Covid-19, che quindi hanno bisogno di essere operati operati, o di essere, ci sono 12 sale operatorie, e quindi questo permetterà di togliere molta pressione agli ospedali newyorkesi. E poi hanno aperto oggi operativo questo primo ospedale temporaneo con 1000 posti di terapia intensiva alla Fiera di New York, e ne stanno mettendo assieme altri 3 che nelle prossime settimane dovranno ospitare chiaramente i prossimi malati. Bene, esatto. Riccardo Barlam, anche a te un abbraccio a fortissimo voi. A New York, vediamo, mi bene. Raccomando. Un abbraccio a tutti. Va da te, ciao Riccardo. E poi per chiudere parliamo anche di sport, lo sapete, delle Olimpiadi ormai, a forza di discutere, di riflettere eccetera eccetera, già la scorsa settimana a un certo punto si è deciso di rimandarle di un anno, dal luglio 2020, in cui, insomma, per organizzarsi ci vuole tanto tempo, a luglio 2021. Dario Ricci, oggi c'è stata l'ufficializzazione, no, delle date? Sì Roberta, ben ritrovata. Dal 23 luglio all'8 agosto di fatto sono sostanzialmente le stesse date di quest'anno sarebbe stata dal 24 luglio al 9 agosto, considerando che l'Olimpiade inizia sempre il venerdì, oddio, forse può essere anche il giorno poco fausto, visto come sono andate queste volte le cose, ma insomma, il CIO che tanto si era contorto nel cercare di tirarle, di portarle a termine quest'anno, poi è stato rapidissimo prima nel farle slittare di un anno e poi nell'indicare le nuove date. Ti faccio notare una cosa, no? Sì, su cui stanno riflettendo anche molti commentatori anche negli Stati Uniti. A partire dal giorno del rinvio, il numero dei casi di coronavirus in Giappone è aumentato sensibilmente. Molti dietrologi, ma anche onesti analisti, hanno quindi provato a trarre questa conclusione, magari forzando un po' di ragionamenti. Cioè, insomma, che prima li tenevano nascosti per riuscire a fare l'Olimpiadi, diciamo che, insomma, contagi che adesso. Magari prima il governo giapponese, chiaramente desideroso di portare a termine di fare ardere il fuoco d'Olimpia, magari ha cercato un po' di tenere quantomeno sotto controllo le cifre. Fortunatamente ancora non siamo a numeri né italiani né spagnoli né americani, però c'è stato si sta ragionando anche su questo dato, anche per far capire qual è la forza delle pressioni che un CIO, un governo giapponese, broadcaster sono in grado di esercitare e che devono trovare comunque un punto di incontro. E meno male, ecco, è stato trovato questo punto di incontro. Sì. Senti, invece è stata rimandata, no, la riunione per decidere degli stipendi dei calciatori. Sì, è stata pagati, diciamo, sì è stata rimandata. Ricordiamo che poi quando si parla dei calciatori non si parla solo dei super ingaggi, ma anche l'associazione calciatori rappresenta anche quei calciatori della Serie C che non hanno questi super ingaggi, per questo il tema è particolarmente scottante. È stata rinviata, si ne ragionerà ancora nei prossimi giorni. Ovviamente intanto monta la pressione di quei presidenti che vorrebbero finirla qua col campionato, al di là di quando sarebbe possibile eventualmente ricominciare. Il fatto è che questa motivazione non è fino in fondo così nobile, no Roberta? Perché molti guardano agli interessi di bottega e dicono, certo, beh, tutto sommato mi costerebbe più far giocare la mia squadra che magari non ha obiettivi o addirittura rischia la retrocessione, allora chiudiamola qua, così congeliamo questa classifica, io mi faccio un altro anno di Serie A, risparmio dei bei soldoni. Insomma, ecco, non è che il livello del discorso sia altissimo. Ci sono i grandi interessi, no? C'è anche poca trasparenza. Sì. Grazie caro Dario Ricci. Grazie a te. Qui ci lasciamo, grazie Dario di questi aggiornamenti. Adesso la conclusione di sempre, di Effetto Notte, da un po' di tempo.